È finita la luna di miele con mio figlio. Fino all'anno scorso, lui era in prima media, sembrava proprio che io e lui ci leggessimo nella mente. Sapevo sempre quello che pensava e anche lui aveva un mondo di attenzioni nei confronti di noi genitori. Insomma, eravamo un nucleo familiare molto compatto, sintonizzato. Direi che questo è l'aggettivo che meglio racconta come eravamo. Invece adesso è un disastro. Lui si chiude nella sua stanza, non parla ma grugnisce a monosillabi e io, lasciatemelo dire, mi sento persa. Ci sono cose che posso fare per riconquistare la giusta sintonia con mio figlio? E se quel periodo di comprensione totale non tornasse più, mi devo preoccupare? Forse non sono stata un buon genitore? Alberto, noi mamme, mi metto in mezzo, ma potrei dire forse anche papà, questo lo direi tu, diventiamo subito un po' tragiche. Date un po' in crisi. Cioè, perdiamo di vista che le cose cambiano. Cambiano in peggio, ma cambiano anche in meglio, si ripigliano. Per cui da una situazione che magari ti dà sofferenza perché il ragazzino grugnisce, perché magari l'ha piantato all'amorosa, oppure perché sta cercando di fare cose che non gli danno soddisfazione, noi tendiamo, e io per prima, a far cadere tutto e a dire ecco, ho sbagliato, che cosa non ho fatto. È normale, ma noi cerchiamo di correggere un po' questo atteggiamento che secondo me porta a poco. A poco. Allora direi, per fortuna che ci sono anche i papà, che in questo senso tante volte sono proprio quelli che tengono un po' sul morale in famiglia e riescono molto molto pratici a essere un po' più concreti. Sì. E per fortuna che in linea abbiamo anche non solo una mamma, ma una dottoressa psicoterapeuta molto brava che insieme a Ulisse Mariani ha appena pubblicato un libro, tra l'altro, che io ho letto, trovo davvero splendido, Mio figlio mi legge nel pensiero, realizzare la sintonia emotiva tra genitori e figli. Dottoressa Rosanna Schiralli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno anche a voi, grazie dei complimenti per il libro, mi fa piacere. D'altra parte, dottoressa, mi scusi, sembrano quasi un po' dovuti, perché l'abbiamo invitata come ospite, abbiamo letto il libro, Alberto soprattutto ne ha fatto veramente grandi elogi e siamo qua, questo lo dimostra, insomma, che certo, ci ha colpito. Certo, ringrazio. Senta, dottoressa, siamo noi mamme un po' catastrofiche che vediamo da una piccola cosa e ci mettiamo tutte in discussione? Servono i papà a così aiutarci a riprendere il passo? Servono assolutamente. Le mamme siamo un po' catastrofiche perché con i figli abbiamo da subito cercato di stabilire un rapporto speciale e pensiamo che i figli siano solo delle mamme a volte. In realtà è vero quello, leggendo la lettera, sentendo la lettera di questa mamma, capisco lo stato d'animo. L'altro giorno una mamma mi diceva, sai, io mi metto ferma davanti alla porta della stanza di mio figlio, che ormai è diventata un bunker secondo me, e guardo quella porta pensando com'era prima e come adesso la situazione. Prima davvero quasi lo leggevo nel pensiero, cioè c'era un'intesa. Adesso, tra l'altro, col fatto che questi ragazzi sentono la musica con l'iPod, non si riesce più neanche a decifrare i gusti. No? Questa mamma mi diceva, almeno quando ero ragazza io, in base alla musica che sentivo, mia mamma si poteva regolare. È vero, questo mi fa molto riflettere questa considerazione. Già. Così anche come adesso i ragazzi che vivono con il cellulare, quindi hanno tutte le loro relazioni col cellulare, prima almeno si sentivano le voci degli amici e si capiva un po', no? Chi era il preferito, la preferita di turno, adesso col cellulare si staccano sempre di più. Ma c'è modo per recuperare questa sintonia con i nostri ragazzi? Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme. Tante volte abbiamo sentito dire dei genitori che dicono: per me mio figlio è un libro aperto. A volte questo libro si chiude e non riusciamo più a leggere nulla. È un po' il caso della nostra ascoltatrice che ci ha scritto questa difficoltà che trova nel ragazzo che è cambiato, che grugnisce, si chiude, e allora come fare? Ne stiamo parlando insieme ad Alberto Pellai e alla dottoressa Schiralli. Forse sta capitando anche a voi una situazione di questo tipo. Magari non riuscite più a entrare in sintonia emotiva, come dicono gli esperti come Alberto Pellai. Alberto. Sì, mi sento di dire intanto ai genitori all'ascolto che fisiologico e salutare che la mente di un figlio non sia più totalmente accessibile alla mente del genitore quando uno entra in adolescenza. Per cui ci devono essere proprio degli spazi che sono solo di un figlio, perché la situazione è cambiata. Questo non toglie che anche in questa diversità di relazione un genitore e un figlio rimangano profondamente sintonizzati. Per cui alla nostra dottoressa, che nel libro ha proprio introdotto per la prima volta il concetto di quoziente di sintonizzazione emotiva, provo a chiedere: nel quotidiano, proprio nella pratica, cosa significa essere sintonizzati tra genitori e un figlio adolescente? Significa intanto rispetto del confine, e infatti sono pienamente d'accordo con lei quando dice nell'adolescenza è giusto che un pochino la mente del figlio non diventi accessibile, perché è una metafora, no? Io la dico spesso, le navi sono sicure in porto, ma non sono state costruite con questo obiettivo. Quindi le navi sono costruite per navigare, certo, per viaggiare, solide. I figli lo stesso, i figli è vero che quando sono piccoli sono più sicuri in porto, però ogni giorno che passa devono sentire il coraggio di poter esplorare. Nell'adolescenza devono sentire la spinta verso l'esterno, ma devono sentire soprattutto di potercela fare, e quindi non si può rimanere in quella in quel rapporto stretto, no? Non dico simbiotico perché non va bene mai, ma in quel rapporto troppo stretto col genitore, se no non avverrebbe la differenziazione, cioè la crescita. Certo, ma tornando, mi scusi, alla domanda di Alberto, prima parlavamo di numeri e ritorna il quoziente, insomma come faccio a capire, soprattutto a prevenire, a leggere quei segnali che mi stanno dicendo, mi possono dire che qualche cosa si è rotto, non mi piace usare rotto, mi correggo, un velo un pochino più, se certo, vogliamo, certo. Spesso sta calando tra me e mio figlio. Certo, allora se da subito, da quando un figlio è appena nato, si riesce a creare, a realizzare una sintonizzazione adeguata, cioè se i genitori, mamma e papà, papà compreso, si riescono a trovare le frequenze giuste, c'è un modo che ora sarebbe lungo spiegare, allora non c'è probabilmente il rischio che che il figlio poi nella preadolescenza e nell'adolescenza si trovi in difficoltà al punto da chiudersi e da creare appunto questa interfaccia eccessiva tra sé e il genitore, questa distanza si riduce notevolmente e si abbatte, e questo avviene attraverso una buona sintonizzazione che è fatta di rispecchiamento, è fatta di conferme dei bisogni profondi del bambino, che è fatta di regole e di contenimento. Sono molto d'accordo con quello che sta dicendo la dottoressa Schiralli, e provo a dare un esempio concreto proprio di una mamma che mi ha fermato due sere fa e mi parlava di come è diventato faticoso il rapporto con sua figlia, al punto che lei era addirittura preoccupata di averla quasi persa sua figlia, cioè sua figlia non ha più un rapporto con me. E devo dire, ecco, questo è un segnale d'allarme, cioè se vi sembra che nella relazione con un figlio la parte della fatica, del dovere, del dolore è totalmente predominante rispetto alla parte del piacere, allora effettivamente la sintonizzazione è saltata. Vi invito però come genitori a ripensare anche a tutto il mondo di bello, di meraviglia che c'è stato e che si sta trasformando, sì, nella vostra vita. Assolutamente. E in quel modo, proprio ripensando alla meraviglia che è vostro figlio, automaticamente vi risintonizzate con lui, perché gli rimandate attraverso lo sguardo quanto vostro figlio è meraviglioso e non solo fonte di fatica e di magari frustrazione. E poi io aggiungerei, cerchiamo di capire che quelle occasioni in cui noi testavamo, toccavamo con mano la nostra sintonia, sono cambiate, cioè i nostri ragazzi crescono, dobbiamo imparare a cercare insieme a loro dei nuovi scenari in cui sperimentare la nostra lunghezza d'onda, perché prima poteva essere un gioco, andare a vedere un film con loro, i ragazzi adolescenti hanno il loro gruppo, i loro interessi, la musica con cui magari che noi non condividiamo, ma dobbiamo cercare cercare un campo d'azione in cui, guardandoci negli occhi, ci ritroviamo. Loro ritrovano la loro mamma, il loro genitore, noi forse quel bambino che abbiamo pensato di perdere. E cito di nuovo la dottoressa Schiralli: rispecchiare un'emozione significa, quando si vede un figlio triste, semplicemente dire: vedo che sei triste. Non cominciare un interrogatorio infinito dove, con domande su domande, noi vogliamo capire il perché e il per come. Se vorrà, ce lo dirà. Dottoressa Schiralli, io la ringrazio per essere stata con noi. Proveremo a metterci in sintonia con i nostri ragazzi con un altro paio di occhiali, come dice spesso Alberto. Intanto la ringrazio, le auguro buona giornata. Grazie, grazie anche a voi, arrivederci. E vi consigliamo il libro Mio figlio mi legge nel pensiero, Ulisse Mariani, Rosanna Schiralli, Mondadori. A questo mettiamo il bollino blu. Assolutamente. Di Questa casa non è un albergo. E a proposito, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Le filastrocche per rispondere alle domande difficili. Per ricevere questo libro a casa dovete naturalmente essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it. Nell'email dovete mettere il titolo del libro, naturalmente i vostri recapiti, ma ricordate anche il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ehi, ehi, ehi. Oh, bisognava che io, Cuba, Fossi, esatto. Ma lei crede veramente che se io vado da mia madre e dico bisognò che io sia Fossi, se dico così, che lei davvero capisce? Ma sì, è roba da medioevo questa. Ma no, che non è roba da medioevo. E comunque, posso rispondere alla domanda che mi è stata io fatta? Io l'autorizzo. La prima cosa che noto è che ancora prima di avere la padronanza di una cosa, in questo caso l'imperfetto congiuntivo, siete già tutti lì a dire che non serve a niente. Cominciate col saperlo. Cominciate col saperlo e poi potrete mettere in discussione il suo utilizzo. Chiaro? Sì, c'è La Repubblica, il libro La Repubblica. La Repubblica di Platone? Sì. Ma che genere di domande si pongono? Su quali argomenti? Su tutto. Sull'amore, sulla religione, su Dio, sulla gente, su tutto. È bellissimo che tu l'abbia letto. Sì, lo so. Non è un libro da sgallettata, eh? Era La classe, un breve estratto questa settimana, questo film che è piaciuto a tutti, specialisti, esperti, ma anche gente comune. Esce in DVD, noi ve lo consigliamo perché permette di dare uno sguardo al mondo degli adolescenti, al mondo della scuola, molto fresco e originale. Ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Alberto. È così, e tra l'altro proprio lo scorso anno è stato presentato in anteprima nazionale al Fuji Film Festival, che in realtà si sta preparando a vivere la sua seconda edizione. E per una breve anteprima abbiamo in linea con noi il presidente, il dottor Gianni Astrei. Buongiorno, dottor Astrei. Buongiorno, buongiorno a voi e ascoltatori. Buongiorno e benvenuto. Dottore, mi scusi, ma cos'è il Fuji Film Festival? È arrivata la sua seconda edizione, ma presentiamolo. Sì, il Fuji Family Festival è il primo evento cinematografico, ma non solo cinematografico, anche che riguarda la televisione, internet, i videogiochi, destinato a un pubblico di famiglie. Sì. Ecco, il dato, diciamo così, significativo è che i film che fanno maggiore incasso al botteghino sono i film destinati alle famiglie, e nel panorama, diciamo, festivaliero italiano non esiste nessun festival dedicato specificatamente a loro. E quindi ecco, noi dipartendo da questo dato di fatto e considerando anche l'influsso che i mezzi di comunicazione hanno da un punto di vista pedagogico, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa che già l'anno scorso ci ha dato grandi soddisfazioni. È una bellissima idea. Quindi voi in una settimana mettete insieme le famiglie, poi mettete insieme tutti i film rivolti a loro e li fate incontrare. Esattamente, cioè noi vogliamo creare un'occasione in cui chi fa cinema, chi fa televisione abbia la possibilità di incontrarsi con chi ne usa maggiormente, cioè con le famiglie, perché gli altri festival sono frequentati soprattutto da addetti ai lavori oppure da amanti del cinema. In questo caso noi vogliamo creare un'occasione di incontro e di scambio tra, appunto, con le famiglie, e quindi non solo con i genitori ma anche con i loro figli. Tra il grande schermo e la platea. Dottore, la ringrazio. Grazie a voi e buon lavoro. Buoni preparativi soprattutto. Alberto, noi andiamo, è tempo di salutarci, di darci appuntamento per il prossimo sabato. Io ci sarò. Questo ne mi fa piacere. E intanto buon sabato da Nicoletta Carbone. Ed Alberto Pellai.